Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E parliamo di consumi, e meglio di consumo, di utilizzo di internet esattamente. Saluto il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Dunque, il web, l'uso di internet si sta diffondendo sempre di più anche tramite le nuove tecnologie che ci possono consentire di navigare con i nostri, con i cellulari o con apparecchi molto più portatili di un computer. Stiamo crescendo da questo punto di vista, poi magari faremo il caso anche a qualche pericolo che ci può stare dentro questa cosa, ma intanto diamo qualche numero. Sì, diamo qualche numero, e questa volta a farlo è stato il rapporto generale dei Census, dove praticamente viene detto che il 62% degli italiani naviga sul web e quasi uno su due praticamente è iscritto su Facebook. Quindi certamente è un fenomeno in grande ascesa in questi ultimi anni, che sta coinvolgendo sempre e maggiormente generazioni di ogni tipo, e in particolar modo uno stimolo a questo numero, a questi numeri, è stato dato dalla vendita degli smartphone. Eh sì, come dicevo prima, gli apparecchi, i telefoni multimediali, multifunzione, che senza arrivare ai costi esagerati dell'iPhone, ma possono permettere appunto questo tipo di servizi. È un boom da una parte, ma forse dall'altra parte ci sono settori dove si perde, no? Si perde moltissimo, anche perché vediamo che un'impennata di questi numeri poi determina un calo dei lettori, dei normali quotidiano cartaceo che avevamo abituato una volta a comprare e a sfogliare, e soprattutto la gente legge sempre meno. Diamo qualche numero giusto per essere precisi. Per esempio, i quotidiani registrano un calo del 2,3%. 5 anni fa invece li leggeva il 67% degli italiani, oggi sono diventati sino al 45%. Poi, per quanto riguarda la lettura del libro, il 49,7% degli italiani legge circa un libro all'anno, molto molto poco. Perché? Perché comunque, per carità, ci sono le iPod, ci sono le book, però fondamentalmente si legge molto meno. E purtroppo si registra una grande disaffezione per la carta stampata, perché nel 2011 e nel 2012 i lettori di quotidiani di età compresa tra i 14 e i 29 anni sono diminuiti fino al 33%, mentre i libri, sempre riportati a questa età, che è l'età più importante dove una persona si forma, è passato dal 68 al 57%. Questo non per demonizzare, ma probabilmente perché cambiano i tempi. Un giornale, o meglio, le notizie si possono avere, penso, ai siti ufficiali dei principali quotidiani italiani, ma anche regionali, si possono avere gratuitamente su internet, quindi uno si domanda perché devo pagare €1, €1,20 per comprarmi un giornale che appena comprato rischia di essere vecchio. Come hai detto te, sicuramente è così, però è anche vero che, per esempio, se tu mi chiedi a me cosa ne penso, io sinceramente faccio fatica a sostituire un quotidiano da una lettura su internet, perché comunque rimangono due modi di leggere completamente diversi, anche se purtroppo devo anche dirti che da una parte abbiamo sicuramente l'incentivo che i mezzi tecnologici sta dando per questa diffusione di notizie, dell'altro comunque anche la crisi sta facendo in modo che gli italiani risparmiano sui libri e sui quotidiani. Dopo, l'augurio, l'importante è che comunque tutti siano informati, che utilizzano i mezzi più appropriati, però ecco, sono sicuramente dei dati e dei numeri che, insomma, ci possono far ragionare, perché l'importante, io dico, che in qualche modo le persone si informino e trovino loro il modo di farlo. Certamente non solamente navigando sui social network per un fatto di gossip, ma che anche possano dare un contributo attivo su quella che è la vita e la trasformazione che il paese in quest'ultimo periodo in particolar modo sta subendo. Tra l'altro, con il rischio, lo dico da giornalista, che l'informazione sia superficiale, cioè che non legga solo il titolo, le prime tre righe, magari un tweet o un rilancio, ma non approfondisca le cose. Mi sembra che stiamo andando un po' verso questa tendenza. Magari si hanno tantissime informazioni o tantissime nozioni, ma manca la capacità di andare a fondo delle cose. Bravissimo, manca la capacità e manca anche la critica, però è anche vero che ti dico che a questo bisogna tenere conto il fatto che un italiano su due è anche iscritto su Facebook e con tutti comunque anche i rischi che quando si naviga sulla rete una persona può correre, perché noi come Adico poi sappiamo per esperienza che su internet ne capitano veramente di tutti i colori e soprattutto quando ci sono minorenni bisogna sempre che i genitori cerchino di vigilare e non di abbassare mai la guardia, perché il pericolo purtroppo è in agguato. E allora diamo qualche ulteriore consiglio e indicazione, insomma, visto che poi una volta noi per la cresima o per la comunione ci regalavano l'orologio se andava bene, adesso credo che il regalo sia quasi obbligato, perché potrebbero regalare aggeggi del genere, appunto smartphone o per non arrivare addirittura all'iPad, sempre più connessi, con età sempre più bassa, a cosa stare attenti allora? Beh, innanzitutto il consiglio che io voglio dare è quello di non comprare mai un telefonino a un'età troppo prematura a un ragazzo, perché comunque sono dell'avviso che certamente telefonini e smartphone non contribuiscono allo sviluppo, ma rinchiudono il soggetto più a se stesso, perché poi scopriamo anche da un'indagine che aveva fatto l'Adico un po' di tempo fa come su Facebook i giovani cercano la popolarità fondamentalmente e fanno la gara quasi per chi ha più amici. Chiaramente più si cerca amici, più si cerca la popolarità, più si aumentano i pericoli, e ricordiamo che i pericoli vanno dalle forme di pagamento ma soprattutto dai furti di identità. Io non voglio neanche accennare pedofili, perché spero che questa cosa non capiti mai come Adico di doverla affrontare, però certamente l'invito è quello dei genitori di non abbassare mai la guardia, di dotare di un apparecchio di moderni antivirus, di applicare quelle che sono le funzioni previste per l'utilizzo dei computer minorenni e di non lasciare mai un computer in camera ai ragazzi, perché poi scopriamo sempre che quando dormono capitano delle cose sempre negli orari più incredibili. Per quanto riguarda Facebook e i social network, ci deve essere sempre molta cautela, non solo ad accettare le amicizie, ma anche a promuovere i propri dati personali, perché noi come Adico sempre abbiamo adottato lo slogan di fidate della persona che il giorno del vostro compleanno si ricorda di farvi gli auguri, perché sappiamo che ci sono dei mezzi molto semplici che si trovano anche su internet che permette con il nome e cognome e la data di nascita poter ricostruire il codice fiscale e quindi poter con il tuo codice fiscale fare tante operazioni all'insaputa della persona, fin tanto che poi non succede che questa persona gli venga presentato il conto o subisca qualche denuncia, e noi di questi casi ne vediamo moltissimi. Quindi attenzione, e un'attenzione anche alle tariffe, visto che parliamo spesso anche di soldi. Ah certo, le tariffe sia sui smartphone che sull'apparecchio di casa sono molto importanti, e certamente non c'è una tariffa che sia migliore dell'altra. Il consiglio anche in questo senso è quella di avere la pazienza di non solo cambiare e sfruttare la portabilità per quanto riguarda il cellulare, ma di vagliare sempre le offerte, perché poi abbiamo visto che le offerte ne capitano sempre e spesso ogni qualvolta, e la tariffa più conveniente secondo me non è quella di ingresso, ma è quella che è più confacente alle esigenze e agli usi che una persona fa, perché c'è chi magari scarica programmi e ha sempre il modem acceso, c'è chi invece gli è sufficiente qualche ora, c'è chi preferisce pagare il collegamento, c'è chi invece non vuole avere conteggi di nessun genere, avere tariffe limitate. Certamente, come tutte le cose, dico sempre, valutate bene la tariffa e sfruttate sempre la possibilità di cambiare il gestore, perché la portabilità può dare notevoli sconti. E la fedeltà non paga, in questo caso alla fine purtroppo no, non paga. Noi ti ringraziamo, fra un paio di giorni un nuovo argomento. Grazie all'Adico, a Carlo Garofolini. Grazie a te Mirko e un saluto sempre a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.